Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio, bentornati da Deborah Rosciani, la nostra trasmissione dedicata alla gestione del nostro budget familiare, un budget che qualche volta viene pesantemente decurtato dalle multe che piombano nell'ambito di questo bilancio, multe prese da tutti i componenti, quelli che naturalmente hanno la titolarità della guida, e insomma ci possono capitare delle disavventure in ogni circostanza, qualche volta per negligenza alla guida, a volte perché magari siamo costretti a parcheggiare l'auto in un posto non consentito dalla disciplina insomma amministrativa magari di una città, ma non possiamo fare altrimenti. Insomma, allora, siccome sarà un autunno piuttosto intenso per quello che riguarda le modifiche al codice della strada, allora noi questa mattina vogliamo così un po' prepararvi, mettervi in guardia da tutte quelle misure che in certi casi saranno un po' più severe, e quindi cerchiamo di, non dico mettere in allarme, ma mettere un pochino sull'attenti soprattutto quegli automobilisti indisciplinati e quelli che sono un po' abituati a prendere tante multe nel corso dell'anno. Le novità, dicevo, sono tante. Ci sarà un restyling generale del codice della strada, ma c'è anche un pacchetto di novità contenuto all'interno a sua volta del pacchetto anticrisi che è stato approvato la scorsa estate. Ci sono delle misure che prevedono la possibilità di una sorta di sanatoria per le multe prese prima del 2004, naturalmente la possibilità di rimettersi a posto con l'amministrazione fiscale sarà una possibilità che dipenderà anche da quanto decideranno di fare i comuni in relazione al proprio bilancio, naturalmente. Però allora noi oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza intorno a tutto quello che ci addosso, questo chiaramente come dire un'accezione negativa, ma tutto quello che arriverà in autunno. Questa mattina ve lo spieghiamo con pazienza con il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti, che dovrebbe essere già collegato telefonicamente con noi. Comandante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stanno andando i preparativi per il Gran Premio? Ma dunque, ovviamente sono sempre concitati, quest'anno si prevede qualche problema in più di traffico per alcuni lavori che si stanno effettuando sulla strada statale, però confidiamo di riuscire a reggere l'urto. Benissimo, e allora ha un sacco di cose da raccontarci questa mattina, Silvio Scotti è anche l'esperto per queste tematiche, uno degli esperti su queste tematiche per il Sole 24 Ore. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, che immagino già sarà molto vivacizzata, soprattutto da voi all'800 24 00 24, peraltro ci sono delle cose da spiegare anche in relazione alla nuova direttiva sui controlli di velocità, le novità sulla guida in stato di ebbrezza che hanno fatto tanto discutere negli ultimi giorni, le multe prese con l'autovelox quando non sono regolari, in alcuni casi capita anche questo. Insomma, chiamateci all'800 24 00 24, cercheremo anche un po' di chiarire le vostre singole situazioni come sempre facciamo. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi, gli altri numeri sono invece quelli della borsa. Partita malino di nuovo stamattina dopo tre giornate consecutive di ribasso, anche oggi le piazze europee non hanno alcuna intenzione di così intraprendere una direzione migliore, si stanno muovendo tutte intorno alla parità in attesa della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, ma soprattutto probabilmente aspettano anche qualche indicazione dal governatore della BCE Trichet su come si potrà muovere l'economia europea nei prossimi mesi, quale potrebbe essere ancora l'orientamento sui tassi di interesse. Oggi in ogni caso dovranno rimanere fermi. Piazza Affari, che era partita peggio delle altre piazze europee, quindi ancora in ribasso dopo già i ribassi un po' più consistenti delle altre piazze registrati ieri, adesso sta rafforzandosi, guadagna lo 0,5% sul FTSE MIB, il principale paniere di Piazza Affari, grazie allo slancio che sta avendo Fondiaria, ieri protagonista negativa degli scambi, ha perso il 6%, adesso sta recuperando quasi il 5%, quindi quasi tutto, più 3,73% invece per Atlantia, la ex autostrade. Ieri sono stati pubblicati i dati sul traffico, visto che peraltro parliamo anche stamattina di questo, autostradale, che ha ripreso a salire nel periodo luglio-agosto, e questo evidentemente ha fatto bene agli introiti della società. Prysmian più 2%, Impregilo più 1,85%, Saipem più 1,71%, Unicredit più 1,54%. Il segno meno oggi invece riguarda Parmalat meno 1,40%, CIR -1,39, anche oggi torna a perdere UbiBanca, in ribasso di un punto, Ansaldo meno un punto, -0,8, Campari -0,7%. Terna, euro su dollaro 1,43,02, stamattina sui mercati asiatici il petrolio rimaneva sotto la soglia dei $70, il WTI, il greggio di riferimento americano a 68, il Brent, il greggio di riferimento europeo, quello dei mari del nord, è a $67,48 al barile. Ieri Wall Street ha chiuso in calo, oggi vedremo che cosa succederà. Nel frattempo lasciamo la borsa europea per andare invece al tema di questa mattina. Sentiamo un po' tutte le novità che ci attendono in qualità di automobilisti. Rientro dalle vacanze all'insegna delle novità per gli automobilisti italiani. Il pacchetto sicurezza approvato lo scorso luglio ed entrato in vigore alcune settimane fa ha infatti anticipato una serie di modifiche al codice della strada in vista del grande restyling delle regole della circolazione previste per l'autunno. Sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e decurtazione dei punti della patente anche ai ciclomotori e ai ciclisti, ma non solo. Un aspetto importante riguarda la guida notturna. Le multe, infatti, aumentano di un terzo se le infrazioni sono commesse tra le 22 e le 7. In particolare se non si rispettano i limiti di velocità, la precedenza, la distanza di sicurezza, la segnaletica orizzontale, i semafori e se si circola contromano. Viene poi raddoppiato il periodo di sospensione della patente per il conducente trovato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o per chi guida sotto l'effetto di droghe. Inoltre, è previsto il sequestro immediato del veicolo per chi ha l'assicurazione falsa o contraffatta. Infine, il ritiro, la sospensione e la revoca del documento vengono estesi anche al patentino per i ciclomotori. Un'altra importante novità riguarda i milioni di automobilisti alle prese con multe arretrate. Dovrebbe arrivare, infatti, un mini condono per tutte le sanzioni fino al 2004, comprese quelle per le quali sia già stata emessa l'ingiunzione di pagamento. I cittadini, in questo modo, potranno estinguere il loro debito senza il pagamento degli interessi, ma con un tasso del 4% per l'agente di riscossione. 800 24 0024 è il numero verde per poter interagire con noi sull'argomento di questa mattina. 349 238 6666 è il numero per i vostri messaggi. Allora, comandante Scotti, se dovesse fare una graduatoria di tutte queste novità di cui abbiamo parlato, alcune sulla rampa di lancio, altre un po' più procrastinate nel tempo, ma qual è secondo lei la più importante che gli automobilisti devono attendersi? Direi che la più impattante in generale è quella prevista entro questo mese e che riguarderà la riforma generale del codice della strada. Ci sono delle norme che sono decisamente impattanti per quanto riguarda la nostra condotta di guida normale. Proviamo a pensare che per una serie di persone non sarà più ammesso nessun livello di alcolemia nel sangue. Si sta parlando per i conducenti d'età inferiore ai 21 anni, per i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B, per coloro che esercitano l'attività di trasporto di persone e di cose. Quindi questa è la novità più importante, ritengo, perché ad un certo punto una certa categoria di persone non potrà più neanche pensare di avvicinarsi all'alcol se deve condurre un veicolo. L'altra novità. Il problema è che magari qualche medicinale assunta a volte ha un tasso alcolemico che, come dire, tocca questi limiti più che bere. Dunque, in realtà noi all'attualità, per quanto riguarda i farmaci, è un problema di misurazione. Siccome gli etilometri misurano all'attualità un tasso di 0,1, dal tasso 0,1 in poi, non dovrebbero verificarsi situazioni di questo tipo. Certo che una chiarificazione sotto questo profilo sarebbe abbastanza importante, certo, perché ora riesce difficile pensare di poter fermare la persona e sanzionarla semplicemente perché ha mangiato il cioccolatino con il liquore dentro, ecco. Certo, il noto cioccolatino con il liquore dentro. Guardi, abbiamo già scatenato gli ascoltatori, ci capita sempre, non ci stupisce questo, ma siccome ne abbiamo già pescato uno dei nostri amici che ci seguono da casa, che è stato interessato non direttamente ma indirettamente proprio a questa questione, Roberto dalla provincia di Firenze ci racconta. Buongiorno. Sì, buongiorno, senta, sì, volevo fare questo intervento. Un mio amico è stato fermato un poco tempo fa, lunedì scorso. È un signore di 49 anni, mai fatto nessun tipo di incidente, mai danneggiato nessuno, è stato fermato ed è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,6. Sì. Gli è stata ritirata la patente chiaramente per minimo 3 mesi, ancora non saprà neanche quanto, però minimo 3 mesi, ecco, e mi sembra sia trattato come un delinquente. Quindi lei dice insomma che è un po' esagerato. È un po' esagerato, ma le direi di sì, anche perché visto che questi signori legiferano, stanno molto attenti a fare tante leggi, mi sembrano spesso anche un po' dure. Ecco, allora legiferate maggiormente, nel senso fate leggi più personali, cioè fate una legge che dice bene, la seconda volta che ti prendo è la terza volta, oppure hai fatto altri incidenti, nel senso questo signore viene punito in maniera, mi sembra, davvero pesante. Conoscendo soprattutto, certo, no, tra l'altro conoscendo, come diceva giustamente Roberto, anche in mediamente le sane abitudini di questa persona. Comandante Scotti, sì, c'è una certa rigidità, forse ecco, bisognerebbe adottare un po' di buon senso, a volte anche nell'applicare certe regole, ma anche voi che cosa dovete fare? Comunque la normativa è pienamente applicata già. Sì, dunque, allora, da questo punto di vista direi che ci sono due cose da dire. La prima cosa è che in realtà questo tipo di normazione deriva da delle indicazioni del Parlamento europeo. Ci sono degli studi particolari che ci dicono quale può essere il livello di rischio a cui va incontro la persona e tutti coloro che ovviamente incrociano questa persona nel momento in cui supera un certo limite di alcol nel sangue. Quindi non si tratta di situazioni che dipendono globalmente dal legislatore italiano. C'è ovviamente un Parlamento europeo con degli studi che forse una volta presa coscienza di questi studi il nostro punto di vista è destinato a cambiare. Teniamo anche presente che però una delle riforme che riguarderà proprio il nuovo pacchetto del codice della strada è che il tasso alcolemico, diciamo così, minimo, cioè quello che va tra 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8, effettivamente viene depenalizzato. Sto parlando di un progetto di legge, ci tengo a sottolinearlo, però la situazione al Parlamento pare su questa situazione fortemente orientata. Quindi si passerà da una denuncia penale ad una sanzione amministrativa, che ovviamente comporterà comunque delle sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti, però ci si muoverà su un piano di tipo amministrativo. Un piano di tipo amministrativo, in ogni caso l'ammenda dovrebbe rimanere quella che è in vigore attualmente, comandante? Sì, viene degradata illecito amministrativo, quindi non si parlerà più di ammenda ma di sanzione amministrativa, ma rimarrà appunto sul piano amministrativo. Teniamo conto di una cosa, siamo ovviamente come società pronti a dire che di fatto una persona che guida con questo livello di alcolemia nel sangue non debba essere trattata in maniera così rigorosa, tuttavia nella stessa situazione se ci fosse stato un incidente con, ahimè, un esito letale, il nostro atteggiamento, sto parlando di un atteggiamento globale, cambierebbe completamente, dovremmo riflettere su questo. In ogni caso quello che io vorrei dire, anche io capisco magari anche la perplessità di qualcuno che mediamente ha delle sane abitudini di vita, però voglio dire, il Parlamento non è che si mette di punta a fare queste cose solamente per farci un dispetto e non farci bere magari mezzo bicchiere di vino prima di metterci la guida. Il tema è che sulle strade capitano tanti incidenti, sappiamo benissimo quali sono i bilanci soprattutto dell'estate quando andiamo in vacanza, ma durante tutto l'anno capitano, per cui io direi che se tutto questo serve un po' a scoraggiare invece insane abitudini alla guida, tutto ciò ben venga. Sono stata negli Stati Uniti quest'estate, ho preso degli autobus, diversi autobus per spostarmi da una città a un'altra, ho notato delle abitudini molto molto rigorose, un atteggiamento molto responsabile da parte di tutti gli autisti nei quali sono incappata, anche nei tassisti. Una volta un tassista ha notato che la macchina di fronte a lui è ripartita praticamente il rosso non era neanche scattato, ci ha fatto tutto un discorso su questo comportamento del tutto discutibile. Qua da noi invece è la prassi passare con il semaforo il cui rosso è già scattato, comandante Scotti, quindi sì, non trova, in alcune zone d'Italia si parla di rosso fresco, ecco appunto. Quindi insomma non è un dispetto quello che il Parlamento normando, certo poi il buon senso dovrebbe guidare anche le scelte, però in ogni caso questo abbiamo, su questo ragioniamo, quindi molta responsabilità alla guida, atteniamoci a quello che la normativa contempla. Andiamo agli autovelox, perché vedo che ci sono due ascoltatori pronti su questo. Insomma, si sta parlando, lo scriveva Maurizio Caprino, il collega del Sole 24 Ore, su questo il 22 agosto sul Sole. Si è parlato di rivoluzione per l'autovelox con Alt agli apparecchi nascosti e la gestione privata. In realtà la nuova direttiva sui controlli di velocità, emanata il 14 agosto, si limita a coordinare leggi, circolari, pareri ministeriali non pubblici e sentenze di Cassazione che si sono sovrapposti negli anni. Insomma, cosa succederà per gli autovelox che non sono posizionati magari lungo le arterie stradali in maniera ritenuta corretta? Sentiamo intanto i nostri ascoltatori, cominciando con Andrea da Rovigo. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti e un grazie particolare a Radio 24 per la possibilità di essere qui adesso. Ci dica tutto, Andrea. Io, grazie alle guide normative del Sole 24 Ore sul codice della strada, ho iniziato ad affrontare in modo diverso quella che è la mia vita quotidiana di automobilista, che qui dalle mie parti non è molto facile, non solo per me. Infatti, a proposito, voglio lanciare un appello anche alla vostra radio, perché seguo il problema della nostra zona. È solo di una settimana fa la notizia della ragazza di Adria che ha denunciato la polizia municipale nascosta con l'autovelox. Sempre Adria e altri comuni della zona, non dimentichiamo, che sono indagati dalla Procura di Milano per lo scandalo dei T-Red. Sì. Io stesso ad aprile e in giugno ho segnalato alla Procura che nel territorio comunale sono stati installati dei rilevatori fissi in modo non conforme da quanto previsto dal codice della strada e sono circa il 50% di quelli presenti. Di alcuni poi dire che facilitano le infrazioni potrebbe essere un eufemismo. Ho segnalato vere e proprie imboscate lungo una superstrada che collega Rovigo a Verona. Bisogna vedere le foto che ho fatto per capire. Perché se parla di imboscate? I soldati in Afghanistan fossero appostati così. Ma chi ha interesse, secondo lei, insomma, a mettere in piedi imboscate di questo tipo? Guarda, il comune sì. per i proventi delle multe. Va bene, sì, insomma, questo è un problema vecchio. Andrea, quindi il tema qual è? Il tema è di questa situazione così esasperante. Poi per parlare in generale, per esempio, io sono un motociclista e mi piacerebbe che il ministro dei trasporti o il ministro Maroni mi spiegassero perché un motociclista, ad esempio, che viene fermato perché ha montato uno scarico non omologato, deve pagare una multa di circa 500 euro, gli viene ritirato il libretto di circolazione. Lo stesso motociclista circola su delle strade con i guardrail che non sono omologati per i motoveicoli, ma solamente per gli autoveicoli. Allora, Andrea, lei ci ha posto una marea di argomenti. Io partirei con la questione dei T-Red e degli autovelox, soprattutto per chiedere al comandante Scotti se la prossima tornata di modifica al codice della strada intende prendere di petto anche questa vecchia questione, alla quale abbiamo dedicato anche un'altra puntata di Salvadanaio prima dell'estate, se non ricordo male. Quindi posizionati in modo tale che possano rappresentare addirittura delle vere e proprie imboscate gli automobilisti, come Andrea le ha definite. Dunque, allora cominciamo col dire che la circolare del ministro Maroni è assolutamente apprezzabilissima, però non ha all'interno elementi di novità, si limita soltanto a ricostruire in maniera omogenea un sistema già esistente. Il posizionamento dell'autovelox non preavvertito in maniera corretta, quindi con dei segnali di preavviso che dicano che in quel momento si sta effettuando un rilevamento della velocità, oppure nascosti, come per esempio viene regolarmente segnalato in autostrada, no? Esatto. Ecco, non sono ammessi, ma non sono ammessi da anni. È da tempo che non è possibile fare cose di questo tipo. Qualunque tipo di rilevazione va preallertata. Non solo, ma quelli fissi devono essere regolarmente autorizzati, in particolar modo per quanto riguarda le strade locali, quindi di proprietà. Lei conosceva per esempio la situazione segnalata nell'area di Rovigo d'Andrea? Purtroppo è una situazione nota, nel senso dal punto di vista dei media, dei giornali, non la conosco direttamente, però effettivamente ci sono stati dei problemi piuttosto seri da quelle parti. Io credo che poche, perché sono assolutamente pochissime, situazioni dove si tende tutto sommato ad utilizzare il provento per rimpinguare le casse comunali vadano a rovinare invece una situazione generale dove le polizie municipali, la polizia stradale, i carabinieri lavorano per la sicurezza del cittadino. In ogni caso una multa presa, comandante Scotti, perché l'autovelox ha rilevato evidentemente magari un eccesso di velocità, ma questo autovelox non era adeguatamente segnalato, è una multa che si può contestare? È un'illegittimità bella e buona, si può contestare, e nel momento in cui ovviamente poi c'è un problema di fatto, nel senso di costruire bene il ricorso, nel senso di poter segnalare che proprio questo autovelox era posizionato in maniera non corretta, l'archiviazione è pressoché certa, proprio perché esistono queste regole che vanno assolutamente rispettate. E quindi chiaramente poi una contestazione che è evidentemente più facile se questa contravvenzione l'abbiamo presa perché questa vicenda ci è capitata vicino casa, ma magari ci è capitato in vacanze, andare a risalire se quell'autovelox fosse o meno presegnalato è certo un po' più complesso, per cui anche qui attenti poi a non avventurarci in un ricorso della quale non sappiamo bene neanche come, del quale non sappiamo bene neanche poi il destino, se può andare più o meno a buon fine, ma dobbiamo appunto poi circostanziarlo chiaramente in maniera corretta. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Io credo che forse riusciamo a far intervenire Tina, perché con lei magari chiudiamo il cerchio proprio di questo argomento. Tina, ce la fa in 30 secondi, 40? Pronto? Al massimo. Sì, buongiorno. Dottoressa Rosciani, buongiorno, intanto bentornata. Grazie. Ecco, io volevo dire che premetto che sono mi interesso di politica eccetera, quindi sono di destra. Sono d'accordo su tutto quel che ha fatto questo governo, tranne questa storia dell'autovelox. Non sono d'accordo con Maroni, perché io mi chiedo a che cosa servono gli autovelox se non si possono ottenere nascosti. Cioè, affidiamo tutto al buon senso, al buon senso del comportamento degli automobilisti. Sappiamo benissimo che in Italia è il paese dei furbetti, e quindi se l'autovelox è ben in vista si segnalano con i lampeggianti eccetera, come fanno quando si trova la polizia sulla strada eccetera, e almeno cominciano a rallentare. Tina, certo, comunque io credo che poi questi provvedimenti non debbano neanche essere identificati con una forza politica piuttosto che un'altra, non ha, la sicurezza stradale non ha un colore. Tina, ho capito però la sua considerazione e la sua presa di posizione, è un modo per vedere da un altro punto di vista interessante la questione, e la ringraziamo molto. Il restyling del codice della strada, tante le novità che sono previste dal prossimo autunno, le novità poi più recenti riguardano invece quelle che sono contenute nel pacchetto anticrisi varato in estate, che prevedono anche la possibilità di sanare, condonare multe prese prima del 2004, e questo soprattutto, oltre alle arrabbiature sul posizionamento degli autovelox, ha suscitato un grande interesse da parte dei nostri ascoltatori. Però volevo chiudere il cerchio proprio sulla discussione che abbiamo avuto nella prima parte della trasmissione, comandante Scotti. Non è però una sciocchezza quella che diceva la nostra ascoltatrice di Milano, a prescindere dalle considerazioni politiche che a salvadanaio non facciamo, perché noi parliamo di denaro, di soldi, di quanto a volte dobbiamo anche spendere poi per pagarle queste multe. Insomma, l'autovelox che viene tanto in precedenza segnalato per quello che riguarda la sua posizione, perde anche nella sua funzione, nella sua efficacia? Non ha forse del tutto torto il punto di vista di Tina? No, non è assolutamente un punto di vista così singolare, perché molti anche nell'ambito della categoria pensano che di fatto si perda un'efficacia che invece dovrebbe essere. Tuttavia dobbiamo considerare che esiste anche un rapporto fondamentale tra lo Stato e il cittadino, che deve essere di fiducia. Ora, evidentemente il legislatore, inteso come diciamo così, i parlamenti che si sono succeduti, anche di colori diversi, hanno ritenuto che per quanto riguarda l'eccesso di velocità, forse un pochino anche per la sensibilità particolare che esiste su questa violazione, di ottemperare ad una regola che favorisce la trasparenza del rapporto col cittadino. In questo senza dubbio si perde un po' di efficacia, perché in alcuni casi le regole sono tali per cui l'autovelox è quasi impossibile da posizionare. Infatti, e tra l'altro, proprio ancora una volta per dimostrare quanto siano contrapposte anche le opinioni intorno a questo argomento, vi leggo due messaggi. Sergio: chi rispetta le regole non ha paura degli autovelox nascosti, ma nel paese delle banane le regole non vengono rispettate. E un altro ascoltatore invece ci racconta: due domeniche fa a Formigine, circa mezzanotte, imboscata con autovelox, avevano poggiato per terra la lampada per il flash. Pazzesco. Però vorrei tornare al nostro seminato, quello del denaro, quello dei soldi che ci tocca spendere qualora non viaggiamo in maniera regolare, attenta, prudente e accorta. E se ci sono capitate delle disavventure, chiamiamole così, prima del 2004 e siamo in arretrato con le multe, non le abbiamo mai pagate, adesso c'è la possibilità di mettersi in regola. C'è una disciplina generale definita dal Parlamento, ma comandante Scotti, qua poi dipenderà dai comuni che vorranno applicare e approfittare di questa sanatoria. Qual è oggi la situazione? La legge numero 102 del 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto, questo per qualche ascoltatore che volesse magari informarsi meglio. L'ascoltatore di Rovigo di prima, visto che legge le guide normative, esatto, leggerà anche lei, lo andrà a prendere di sicuro. Certamente. Ed è prevista nell'articolo 15, no, 8,8 quinquies deces, che sembra un po' una parolaccia, perché si tratta di ovviamente disposizioni molto molto articolate. Teniamo conto che in questo caso il rapporto costi-beneficio è tutto a favore dell'utente. Perché? Che cosa succede? Che in realtà l'utente può, ovviamente, per quei comuni che riterranno di utilizzare questa norma, può pagare il minimo della sanzione edittale, il che vuol dire meno della metà dell'importo iscritto a ruolo. Aspetti un attimo, comandante Scotti, credo di aver tra l'altro bruciato la domanda di Giuseppe da Bergamo. Allora, prima di entrare nel merito delle modalità con cui si può sanare la propria situazione pregressa, sentiamo anche Giuseppe da Bergamo cosa deve chiederci, così poi la spieghiamo ancora meglio. Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei fare complimenti per il programma che conduce. Grazie Giuseppe, ci dica tutto. Senta, io volevo chiedere appunto, come avevo su una macchina intestata a me che utilizzava in realtà mia sorella, aveva preso prima del 2004 varie multe non pagate. Quindi prima lei ha litigato con sua sorella perché le multe sono arrivate a lei? Esatto, più o meno. Però di fatto che poi mia sorella è deceduta, essendo intestato la macchina a mio nome, dovrei risanarli io. Certo. Solo che volevo sapere come potrei richiedere col risanamento. Come poter fare. Esatto. Giuseppe, allora, sulla base di quello che stavamo dicendo, dipenderà anche dal suo comune se intende avvalersi di questa opportunità. Comandante Scotti. Sì, dunque, innanzitutto si deve recare presso il comune e in particolar modo presso la polizia locale. Dopodiché, attraverso il suo nominativo, sono in grado di dirle qual è la situazione pregressa, a quali anni si riferisce. Per tutto ciò che riguarda l'iscrizione a ruolo e i verbali elevati fino al 31/12/2004, potrebbe, nel caso in cui il comune intendesse utilizzare questa opzione, essere ammesso a questo pagamento. Mm-hmm. Risparmierà oltre la metà dell'importo. Questo lo posso garantire perché ho fatto dei calcoli. Ah sì, ce ne faccio qualche esempio, comandante. Per esempio, pensiamo ad una sanzione, ovviamente faccio una cifra tonda, le sanzioni non sono più a cifra tonda, per far capire che cosa succede. Una sanzione inizialmente pari a 50 euro, nel caso in cui venga iscritto a ruolo, raddoppia, quindi passa da 50 a 100 euro. Non solo, ma sono previsti degli interessi semestrali pari al 10%. Inoltre, le spese di accertamento e di riscossione. Quindi vuol dire che a seconda del periodo che è trascorso ci possiamo trovare anche una sanzione che da 50 euro arriva a 200. A questo punto la sanzione, nel caso, ripeto, sempre il comune intendesse aderire, torna ad essere di 50 euro, aumentata delle spese di procedimento e notifica dal verbale e di una così di una percentuale per l'agente della riscossione pari al 4%. Quindi direi che si tratta senz'altro di un'opzione molto favorevole questa per i cittadini. Mm. Sì, poi dipenderà da come la considereranno invece comuni e se sarà un'opzione favorevole per i loro bilanci, perché sempre da quello che scriveva il Sole 24 Ore, peraltro il giorno di Ferragosto, un pezzo di Serena Riselli, a favore della sanatoria si schierano alcune città con gravi problemi di arretrati, Roma e Napoli per esempio, c'è un no convinto che arriva da Milano e Bologna, altre città stanno facendo due conti per capire se vale la pena offrire questa opportunità ai propri cittadini non in regola. Secondo lei a Monza che cosa farete, comandante? Beh, in realtà a Monza stiamo facendo dei calcoli, però siccome noi siamo piuttosto così reattivi sulle cartelle esattoriali, nel senso che solitamente le emettiamo nel giro di un anno e mezzo, due, quindi la cosa ci riguarda abbastanza poco, perché ormai tutte le cartelle del 2004 e anche quelle degli anni successivi ormai sono chiuse. Non c'è più niente. No. Perfetto. Allora, chi abbiamo? Abbiamo Giuseppe da Forlì adesso. Buongiorno Giuseppe, 800240024 per tutte le vostre problematiche, a prescindere dalle novità che arriveranno in autunno. Se avete però qualche arretrato a vario titolo con multe con le quali volete mettervi in regola, appunto del passato, non tanto quelle del 2004, prima del 2004, ma anche insomma situazioni che non vi convincono recenti, chiamateci pure, perché il comandante Scotti naturalmente come sempre ci risponde su tutto. Sentiamo Giuseppe da Forlì. Buongiorno, grazie per farmi partecipare alla trasmissione. È un piacere, Giuseppe, sì. Volevo porre un quesito al comandante Scotti, che solitamente ascolto ed è sempre molto lineare e molto diretto. Io faccio per lavoro spesso la A14. Nella A14 sono previsti sia gli autovelox fissi in autostrada, sia gli apparati tutor per il rilevamento della velocità. Per quanto concerne gli apparati fissi, è sempre stato detto e ho letto che esiste una sorta di scarto in percentuale per quello che è il raggiungimento dei 130 km all'ora. Da quello che leggo, i tutor invece non prevedono questo scarto. Ecco, io volevo chiedere se era possibile accorpare in una singola risposta, cioè capire se lo scarto vale anche per il tutor, lo scarto percentuale vale per il tutor vale anche per il tutor oltre che per l'autovelox fisso. Giuseppe, grazie. Comandante Scotti però mi deve aiutare ad interpretare, a tradurre la domanda di Giuseppe. Certo, allora Giuseppe dice: nel momento in cui io transito di fronte a un autovelox, qualunque sia il sistema di rilevazione, telelaser, fotografia, cellule eccetera, è previsto un abbattimento della velocità reale, perché tra l'altro vedo che Giuseppe è molto informato. Che cosa avviene? Avviene che la velocità che viene contestata nel verbale è una velocità inferiore a quella tenuta, proprio per evitare problemi che possono essere riferiti ad un eventuale scarto. Quindi mi faccio capire, se il limite autostradale è di 130, una macchina viaggia a 160, qualora capitasse di fronte all'autovelox la velocità arrivata è di 150? La velocità reale viene abbattuta del 5%. Del 5%. Questo con è lo scarto un minimo di 5 km orari. Facciamo l'esempio in città, che forse riesce meglio. In città, per esempio, la sanzione scatterà dopo aver superato i limiti dei 50 orari. Mi verrà contestato 51 orari, ma in realtà la mia velocità, quella misurata e quella reale, era di 56 km orari. C'è un limite di tolleranza, perché ovviamente il conducente ha sott'occhio un tachimetro che non ha una lettura così precisa al chilometro, e quindi questa tolleranza che ovviamente riguarda anche il tutor riguarda anche il tutor, è comunque calcolata a favore del conducente. E dello scarto che considerava Giuseppe il medesimo? Sì, lo scarto è il medesimo, stesso. È una percentuale di legge. Allora, quindi, ecco, diciamo che noi in realtà quando ci viene contestata una certa velocità è sempre inferiore a quella. Sappiamo che le forze dell'ordine che ce la contestano sanno benissimo che andavamo a qualcosa di più. In pratica. Perché la velocità, scrive un ascoltatore Fabio, non viene calcolata in base alle caratteristiche del veicolo in autostrada? A 130 io con una Porsche dietro ad una Smart. Io con una Porsche dietro una Smart. Adesso non capisco chi guidasse o meno la Porsche, chi la Smart. Comandante Scotti, si è mai discusso anche di una opzione di questo tipo, calcolare la velocità in base alle caratteristiche dell'auto? Perché è chiaro che chi magari ha l'opportunità di viaggiare nella corsia di sorpassi in maniera un po' più facile rispetto a chi ha un'auto invece che ha delle caratteristiche che le permettono di viaggiare in maniera un po' meno veloce. È chiaro che qualche volta, quando anche l'auto di dimensioni più ridotte vuole sorpassare, si mette di là, causa problemi anche in quel caso. Dunque, se noi torniamo un attimo indietro con la memoria, ci ricordiamo che negli anni 70 era obbligatorio esporre all'esterno dell'autovettura, no? Gli adesivi, quelli, esatto, con il limite. Sì, ogni tanto ne vedo ancora qualcuno su qualche camion, su qualche mezzo. Esatto, precisamente. Ecco, ora, questo ragionamento si era già fatto. Poi, in realtà, dobbiamo considerare una cosa, che l'autovettura ovviamente di una certa cilindrata, una certa potenza, frena con maggior precisione, è più sicura, può evitare il ribaltamento, però dobbiamo considerare che è sempre condotta da una persona, no? E dobbiamo tenere presente che quelle sono le condizioni di sicurezza della circolazione in generale. Quindi i 130 km sono una velocità massima che prescinde dalle condizioni dell'autovettura, perché riguarda proprio le condizioni di sicurezza generale. Pur essendo comprensibile il discorso dell'ascoltatore, dobbiamo comunque pensare che soltanto a 40 km orari basta ritardare di un secondo la percezione dell'ostacolo e quindi la relativa frenata per aver percorso oltre 11 metri. A 130 sono circa 37-38 metri. Certo. Quindi rendiamoci conto di questo. Allora, io intanto, ovviamente, siccome avevamo posto tanti argomenti, le telefonate che stanno arrivando sono su punti più disparati, intanto le leggo anche, sempre a proposito dei ricorsi tentati da chi riteneva di aver ricevuto una multa per una segnalazione appunto dell'autovelox non posizionata in maniera regolare. Enrico ci racconta che praticamente ha ricevuto questa multa: autovelox in zona non abitata, nascosto dietro cartello pubblicità, avviso, quindi era segnalato, ma l'avviso era nascosto da un albero, all'una del mattino, il ricorso l'ho perso, ci racconta Enrico, per cui non so adesso quale livello abbia fatto il ricorso, perché poi le opzioni sono diverse. Comandante Scotti, qua insomma, secondo Enrico era tutto nascosto, ma a quanto pare in ogni caso il suo ricorso non è andato a buon fine. Guarda, io sono convinto di questo. Nel caso in cui non ci sia questo cartello, oppure sia messo male, o sia nascosto, o comunque non sia ad una distanza tale per cui, una volta percepito, posso adeguare la velocità alla situazione reale, cioè, e quindi ai limiti prescritti, è una sanzione che necessariamente è illegittima. Poi è chiaro che ogni singolo prefetto e quindi ogni singolo funzionario che istruisce il ricorso, ogni singolo giudice dispone di una discrezionalità, però è altrettanto vero che quando esiste un provvedimento di diniego e quindi di conferma del verbale, questo deve essere motivato. Forse bisognerebbe leggere la motivazione. Sicuramente, adesso in una riga non riusciamo ovviamente a prendere atto un po' di tutto il caso capitato ad Enrico. Tornando sulla questione delle sanatorie per le multe prima del 2004, è chiaro che anche questa è una questione che fa un po' arrabbiare molti ascoltatori, perché l'Oris da Treviso ci scrive, per esempio: significa che pagare regolarmente le multe è sconveniente, e allora che senso ha essere corretti con in termini di comportamento? Infatti credo che anche Davide da Parma voglia esprimere qualcosa di questo tenore. Davide, buongiorno. Buongiorno e grazie dello spazio. Sì, volevo cogliere l'occasione dando voce alla mia personale esperienza di chi, ricevendo una multa, io uso abitualmente anche per lavoro l'autovettura, quindi ogni tanto certo, le capita, Davide. Ne arriva, e io regolarmente ci tengo a regolarizzarla, a pagarla immediatamente. Ovviamente sentendo questa opzione, adesso viene in mente, come diciamo purtroppo tante volte in Italia, che i condoni rendono un po' più furbi quelli che non pagano rispetto a quelli che invece pagano regolarmente. Davide, guardi, io prendo veramente le sono molto vicina in queste considerazioni, io sono d'accordo. Il problema, credo, qua, comandante Scotti, che riguarda più che chi si comporta più o meno correttamente nel mettersi immediatamente in regola rispetto ad una sanzione che gli viene comminata, qui riguarda proprio proprio i bilanci dei comuni, parliamoci chiaro. Credo che sia una normativa che voglia andare un po' a tentare di gestire e migliorare le situazioni delle casse di qualche comune che è letteralmente disastrato. E poi abbiamo parlato prima di Napoli, di una città nella quale a quanto pare le multe non vengono pagate mai, per cui è chiaro che quella è una città che per esempio intende avvalersi in maniera molto significativa di questo condono, quindi sono legittime e motivate le perplessità di molti ascoltatori, ma non per questo. No, certo, sono legittime e motivate e soprattutto si rimane con l'amaro in bocca. Dobbiamo comunque anche considerare che i meccanismi di riscossione molte volte sono abbastanza complessi e in alcuni casi laddove il comune soffre di carenza d'organico oppure mancano dei sistemi informatici adeguati, effettivamente le difficoltà sono tante. Allora, sentiamo un po' Stelio da Mantova invece, che così voleva intervenire per fare una proposta che mi sembra abbastanza originale. Stelio, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Ci dica. Allora, io vi porto semplicemente una realtà che esiste non da adesso, fatto con una contestazione di questo tipo. Primo, se siamo in Europa, perché su ogni argomento della vita non prendiamo il meglio di quello che c'è già magari fatto dagli altri, che si guadagna tempo e c'è già sperimentato? Tornando a noi, in Finlandia succede questo, lo so perché io ci vado tutti gli anni, la mia donna è finlandese, non parlo per sentito dire, io vivo certo, una realtà certo. Là quando parla vado con là, cognizione di causa, certo. Torno arrabbiato perché dico ma questi, cioè a volte mi vergogno, ma lei sta parlando peraltro no Stelio, adesso la lascio concludere, sì. Ma comunque di paesi che hanno una storia, una cultura, tradizioni diverse su tanti altri campi, parlo per esempio l'educazione, l'assistenza per le donne che lavorano, su tante altre cose per le quali noi guardiamo veramente certe esperienze sono lontani anni luce da noi e magari in ogni caso cosa succede per le multe? O al Multanova, no? Sì. La multa va pagata giustamente in proporzione allo stipendio, ai redditi, perché se passa un operaio che gli danno 100 euro di multa perché facevi 60 invece di 50, gli fa malissimo, ma ne becca anche 2-3 in un mese. Ma se passa un Valentino Rossi o un Schumacher, che sono 3 miliardari, gliene frega un tubo, là invece è proporzionale, vuol dire che a me mi danno 100 euro. Passa un Valentino Rossi anche 50.000 euro per la stessa cosa. Certo. Allora sì che si infonde la giustizia e soprattutto deve fare lo stesso effetto a tutti, male. Stelio, a rispettare le regole. Grazie molte, ci saluti la sua compagna finlandese, comandante Scotti, come la vede questa opportunità? Adesso siamo forse nell'onda delle considerazioni anche un po' folcloristiche perché il tema si presta, però chiaramente poi se un incidente stradale causa la perdita di una vita, io direi invece di considerare un po' tutto, voglio dire la sicurezza sulla strada ha lo stesso valore in questi termini. Certo. Teniamo anche presente una cosa, che probabilmente un sistema di questo tipo dovrebbe essere valutato anche al di là della singola realtà nazionale, secondo si deve basare, permettetemi la battuta, su redditi certi. Quindi. In ogni caso forse insomma le multe sono calcolate in proporzione allo stipendio, ma magari in Finlandia le multe si pagano senza dover ricorrere poi a condoni periodici come nel caso di cui parliamo questa mattina. Prima di sentire Giuseppe da Reggio Emilia, che credo sarà poi l'ultima telefonata di oggi, c'è comandante, tra le novità che arriveranno anche, e questa mi ha incuriosito parecchio perché anche questa è molto bella e ha sempre a che fare un po' anche con le nostre abitudini di cittadini che non sono sempre molto all'insegna della civiltà, in tema di decoro urbano ci sarà una specifica sanzione per gli automobilisti che sporcano le strade gettando mozziconi di sigaretta, cartacce o altro dai finestrini del mezzo. Un comportamento di questo tipo potrà costare agli automobilisti colti sul fatto una maxi multa fra i 500 e i 1000 euro, è così? Dunque, in realtà questa norma c'è già. Ah, ecco. È entrata in vigore da poco. No, perché è ancora noto la cattivissima abitudine di gettare il pacchetto delle sigarette vuoto in autostrada ed è una cosa che veramente mi fa imbestialire. Sì, certo. Premetto innanzitutto che esiste già una norma che vieta questi comportamenti, è l'articolo 15. Però, tuttavia, la sanzione è stata ritenuta piuttosto bassa. Si è distinto tra chi butta il mozzicone alla sigaretta, di sigaretta oppure chi imbratte effettivamente la strada, quindi con un lavoro di pulizia. pulitura tipo l'olio, sversamento di olio e cose di questo tipo. Si tratta dell'articolo 34 bis, è già in vigore ed è entrato in vigore con la legge numero 94 e prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro. E insomma, quindi attenzione anche a questo, cerchiamo di avere un po' di cura anche delle nostre città, delle nostre strade, perché davvero sono abitudini pessime. Un ascoltatore ci scrive che la multa proporzionata al reddito c'è anche in Svizzera, ci dice Antonio, non lo sapevo. L'ultima considerazione, Giuseppe da Reggio Emilia, noi stiamo chiudendo, ce la fa in 15 secondi? Sì, buongiorno, io spero in una forma di condono anche per quanto riguarda i punti da sottrarre sulla patente, perché io faccio un lavoro che mi porta in auto per 80.000 km all'anno. Spesso mi capita di frequentare delle provinciali, addirittura in pieno solleone, alle ore 1:30 mi contestano 74 km orari di velocità, mi tolgono 5 punti. Io pago regolarmente tutte le multe, le aspetta condoni. Non è quello il mio problema, però mettetevi nei miei panni, se non mi date una mano da questo punto di vista io rischio la patente, per fortuna c'ho ancora 15 punti. E li tenga cari, Giuseppe, la ringrazio molto. Comandante Scotti, 10 secondi di tempo per concludere con un'ultima raccomandazione sul finale. Quando ci risentiamo, qual è la novità più importante che entra di nuovo, ricordiamo, la regime tra poco e per la quale ci sarà necessità di rifare una nuova puntata di Salvadanaio? Beh, ce ne saranno tantissime, riguarderanno dal divieto di sosta all'autotrasporto, anche agli stessi termini per la notificazione. La polizia locale e la polizia stradale non avrà più 150 giorni di tempo, ma soltanto 90. Cambieranno anche le regole sul sequestro. Ci sarà veramente tante cose da dire. Avremo un autunno molto interessante. Allora, intanto la lasciamo al Gran Premio di Monza e altre auto che scorrazzeranno in termini di velocità in maniera molto più nota. Grazie, comandante Scotti, per essere stato con noi. Buon lavoro, allora, presto. Grazie, a presto. Noi ci risentiamo domani. A Salvadanaio parleremo di mercati, come è andata ad agosto, come si sta riaprendo male questo mese di settembre. Da Deborah Rosciani, buona giornata.